got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of gioca. Si possono fare i castelli di sabbia, si può stare sotto l'ombrellone e fare le parole crociate, si può giocare con le racchette e la pallina, si possono fare volare gli aquiloni e si può scrivere il proprio nome sulla sabbia. A mare si gioca. Si possono fare le gite col canotto, si può prendere un materassino e fare il bagno col bambino, gli puoi mettere i braccioli, la maschera e poi quando esce dall'acqua starci insieme e giocare con lui, con la paletta e il secchiello, perché a mare si gioca. A mare si gioca, i gabbiani lo sanno, infatti volano a pelo d'acqua. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena. Questa sera andiamo in onda in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana di Sanremo e abbiamo voluto aprire con questa canzone di Nino Frassica che abbiamo ascoltato qualche sera fa proprio sul palco di Sanremo, dedicata ai migranti, perché la migrazione, l'identità, le radici fuori dal nostro paese e la necessità dell'uomo di spingersi oltre i propri confini è il tema anche della nostra trasmissione. Ci sono bambini che giocano a stare immobili con la faccia in acqua senza respirare, perché tanto lo sanno che sta per arrivare la mano forte del papà che li prenderà e li farà giocare. A mare si gioca. Durante la puntata poi ascolteremo alcune musiche del compositore, pianista Ezio Bosso che abbiamo imparato a conoscere proprio al Festival di Sanremo. Ma i temi di oggi invece sono di stretta attualità. Parleremo prima delle primarie del PD a Milano che si sono tenute una settimana fa e poi delle unioni civili. E perché? Perché questi temi vanno a intersecarsi con le comunità straniere nel nostro paese e ci sono state forti polemiche per la partecipazione al voto alle primarie del PD in città della comunità cinese. Senza girarci attorno, i cinesi sono stati accusati di essere delle truppe camellate in pratica per portare voti a un candidato del PD. Questa accusa è risultata un'offesa per gran parte dei cinesi a Milano e fra di loro abbiamo l'ospite di questa sera, Francesco Wu, imprenditore, vicepresidente di Associna, laurea in ingegneria elettronica, un ristorante molto famoso e tipicamente lombardo, parla il meneghino, paga le tasse in città e vuole contare. Perché vi siete arrabbiati? Buonasera a tutti. Diciamo che essere accusati di brogli quando semplicemente si è fatto un po' di sensibilizzazione al voto, la novità assoluta di queste primarie era proprio la prima proprio questa prima partecipazione della comunità cinese dopo che alcune associazioni hanno sensibilizzato sull'importanza di una partecipazione pubblica. Quindi quello che voi dite è avete sempre accusato la comunità cinese di essere chiusa, di non partecipare alla vita cittadina e proprio ora che siamo riusciti invece a coinvolgere i cittadini cinesi ci accusate di essere truppe camellate praticamente al soldo di un candidato invece che di un altro. È stato offensivo per voi questa accusa? Certo che è stato offensivo, anche perché la vera novità sta nella ragione di questa partecipazione, secondo me, perché ci sono tante associazioni, alcune associazioni a Milano in particolare, come la mia, che in questi anni si sono, diciamo, battuti per la convivenza tra la comunità cinese e quella italiana in modo molto deciso e forte, perché abbiamo preso delle posizioni, ad esempio, contro alcuni provvedimenti comunali, e la gente comune ha visto come abbiamo lavorato in modo trasparente e gratuito. Diciamo che in questo momento la partecipazione è il segno di questa fiducia che la gente ripone in alcuni leader della comunità. Quindi questa è una cosa positiva che in passato non c'era. Non bisogna pensare alla comunità cinese come a un monolite, perché se fosse un monolite tutti i 20.000 persone sarebbero andati a votare e avremmo veramente condizionato le primarie. Invece questa volta hanno votato un numero comunque importante, perché prima si partiva da zero, hanno votato più di 1.000 persone, e quindi è proprio, diciamo, da questo manipolo di persone che bisogna guardare, perché sono quelli che rispetto agli altri hanno creduto più degli altri che una partecipazione alla vita pubblica può migliorare la propria vita, loro e dei loro figli. Quindi questa è una cosa molto importante. Come diceva lei, poi si è visto dai numeri che a votare fra i cinesi sembravano molti, ma in realtà era una percentuale abbastanza bassa, no? Sull'1%, poco più dell'1%, no? L'1,5%. Poi deve tenere presente che non sono conteggiati quei cittadini cinesi che hanno già la cittadinanza italiana, quindi non sono considerati cittadini. È chiaro, è chiaro. In ogni caso un numero esiguo. Tra l'altro è un paradosso il fatto che durante le primarie sia stato permesso appunto a chi presentava un regolare permesso di soggiorno di votare, una scelta coerente con l'idea più generale che gli stranieri possano votare almeno alle elezioni comunali, ma poi appunto questa decisione è stata criticata dagli avversari di Sala. È veramente un paradosso. Sì. Perché si è pensato che la comunità cinese appoggiasse Sala? Forse perché è una comunità interessata al commercio, all'internazionalizzazione della città? Esatto, nel senso che Sala, tra i vari candidati, parte che è quello che ci ha cercato più di tutti e prima di tutti. Quindi vi ha cercato? Sì, infatti alcuni, diciamo, suoi sponsor, diciamo sponsor, persone che lo sponsorizzavano, ci hanno cercato. Poi era un nome, diciamo, facilmente spendibile all'interno della comunità cinese, perché è conosciuto per Expo, e invece gli altri candidati semplicemente venivano dalla vecchia giunta, con cui noi abbiamo avuto un pochettino di contrasto, no? Non tanto con la Balzani, ma con Magliorino. Con Magliorino abbiamo avuto un pochettino di problemi, perché lui era all'inizio, forse nel 2012, era l'assessore che gestiva un po' i rapporti con la comunità cinese. Io ho provato a dialogare tramite lui con la giunta milanese per cercare di trovare un accordo per non fare la ZTL merci, ma cercare di trovare una soluzione vera, condivisa, no? Diciamo condivisa anche dalla comunità cinese. Questo non è avvenuto. Quindi non c'è stato un dialogo vero con la vecchia giunta, almeno per quanto riguarda la prima ZTL. Quindi con lui abbiamo avuto diversi problemi, ecco. Quindi il Magliorino non era ben visto dalla comunità cinese. Se si diceva andiamo a partecipare alle primarie, dovevamo comunque, siccome era la prima volta che si partecipava, no? Comunque almeno i leader della comunità cinese si sono sentiti di doversi, diciamo, prendere posizione. Poi ovviamente dalla base ognuno poi vota chi vuole. Noi non sappiamo. Ma voi avete dato indicazione di votare Sala? No, alcuni rappresentanti della comunità cinese si sono schierati a favore di Sala, ma come tanti circoli PD, come il Codacons si è schierato per la Balzani, no? Come adesso altre realtà si sono schierati per Magliorino, no? Alcune comunità sudamericane si sono schierate apertamente per Magliorino. E loro invece non sono stati accusati di essere truppe camellate. Come mai, secondo lei? Perché hanno capito diciamo gli avversari di Sala hanno capito il potenziale della comunità cinese. Sicuramente alcune dichiarazioni di alcuni politici ci hanno fatto capire che comunque in Italia si antepone, come dire, pur di prendere qualche voto in più, la gente è disposta anche, come dire, a usare espressioni razziste, ecco, proprio. La polemica che hanno tirato fuori sulla questione della conoscenza della lingua è una polemica sbagliata, cioè modo di attaccare la comunità cinese in modo sbagliato, perché le regole del primario non prevedono la conoscenza della lingua italiana. Non c'è, c'è solo come requisito la residenza a Milano e l'altro requisito è l'avere... Quindi diciamo, potevano votare anche persone cinesi che non parlavano l'italiano. Certo, questo presupponeva però capire poco dei programmi dei candidati. Ma i programmi dei candidati sono stati, diciamo, sono stati tradotti in lingua cinese. Grazie per essere stato con noi, buona serata. Buona serata, grazie. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. You've got to give a little... Indovina chi viene a cena. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Come dicevamo, parliamo di un altro tema del quale si discute proprio in questi giorni di strettissima attualità, ossia delle unioni civili. A Milano, in piazza, quando c'è stata la manifestazione a favore del disegno di legge Cirinnà alla fine di gennaio, c'era anche un attivista di Amnesty pakistano da 10 anni a Bergamo, che teneva sollevato un cartello arcobaleno con su scritto Allah ama l'uguaglianza. Lui è Wayat Abbas Kazmi, che è il protagonista della seconda parte della nostra trasmissione. Buonasera. E lei è islamico, però ha lanciato una campagna mondiale per rompere pregiudizi e tabù sull'Islam e l'omosessualità. Ricordiamo che in Pakistan l'omosessualità è reato, è così? Perfetto, sì, è così, è proprio così. Allora, come mai ha preso questa posizione che in effetti rispetto alla comunità islamica è abbastanza isolata? Perché le comunità islamiche in Italia, ad esempio, hanno appoggiato il Family Day. Giusto, perfetto. Ascolti, quanto riguarda parlare sui diritti umani o fare un passo avanti, essendo un musulmano e un pakistano, dove non esistono, cioè essere gay è un reato, io purtroppo la battaglia per i diritti umani sto seguendo da parecchi anni. Sono un sceneggiatore e ho girato 2 film lungometraggi sui diritti umani, sempre su minoranza in Pakistan, la violenza dei diritti umani in Pakistan. E quando sono tornato in Italia, cioè per me hanno molto valore questi diritti umani, perché da noi non esistono, capito? E per questo ho lanciato questa campagna, visto che tutti parlavano di quanto si guarda in Italia a quest'ora, si parla sui unioni civili, tutto quanto. Allora ho lanciato un hashtag, una campagna per invitare tutti i musulmani a fare un passo avanti verso uguaglianza, cioè diciamo integrazione. Che tipo di reazione ha avuto a questa sua campagna da parte soprattutto della comunità musulmana in Italia? Sì, Allora, quanto riguarda la relazione della gente, ovviamente all'inizio solite minacce e le parolacce su social e tutto quanto, che ormai non era una cosa nuova, sono abituato e lo so, e lo sapevo già, quindi avevo già il coraggio di, come si dice, cioè, lo sapevo già tutto questo che succederà, però la cosa più bella di questa parte è che mi hanno mandato tanti messaggi inbox le persone omosessuali pakistani e soprattutto le femmine musulmane lesbiche, che per il mondo forse non esistono neanche, ma veramente ci sono tante, e ne ho conosciute tante dopo aver lanciato questa campagna, e questa cosa qua che mi fa molto piacere, e discutono con me, anche se per ora non sono in grado di aiutarli, ma almeno hanno iniziato a discutere con me. E poi ovviamente quando inizi a discutere su un problema, cioè più o meno pian piano alla fine si risolve anche, però almeno abbiamo iniziato qualcosa. Lei diceva che ha ricevuto delle critiche, soprattutto sui social network, da parte di italiani o da parte di persone di origine straniera? Allora, quanto riguarda dei pakistani, comunità pakistana, ovviamente erano sempre le minacce, i commenti negativi, cioè solito pensano che stai facendo per diventare famoso, ma nessuno lo sa che non è una cosa che ho fatto quel giorno là, ma sto lavorando da parecchi anni, dagli ultimi 6-7 anni che sono in questo mestiere dei diritti umani. E ho visto dei commenti negativi di italiani, che è quello che mi faceva più male, cioè perché, cioè, non aspettavo almeno da comunità italiana i commenti negativi, che tipo vai a dirlo in Pakistan sapendo già che non posso andare a dire in Pakistan, e per questo ringrazio Italia che mi ha dato opportunità di alzare la voce su questo tabù, però non aspettavo invece di apprezzare, ho vissuto i commenti negativi che non so perché, cioè non ho capito ancora perché era così. Lei è un musulmano praticante? Sì, sono un musulmano, d'origine da una famiglia sciita. Lei lo sa, come dicevamo all'inizio, che la comunità islamica in Italia hanno appoggiato invece il Family Day, quindi diciamo non il disegno di legge che è in discussione in questi giorni sulle unioni civili, ma la famiglia tradizionale. Crede che si possa conciliare la sua posizione con il professare l'Islam pienamente? Io sono fiero di essere musulmano e io quello che credo dico, quindi quel hashtag che ho lanciato, dove dico che Allah, love equality, che Allah ama uguaglianza, se ero un cattolico lanciavo Gesù ama uguaglianza, se ero un buddista, cioè scrivevo Buddha ama uguaglianza, perché in realtà la natura chiama uguaglianza, E questa idea in realtà era venuta proprio dopo l'hashtag lanciato dal mondo musulmano Not in My Name, dopo gli attacchi del Parigi, dove per difendere Islam e per difendere loro stessi, visto che abitano tutti in Europa, hanno lanciato questo hashtag che noi non siamo terroristi, e sono fiero di quell'hashtag, l'anzi ho fatto anche io. Però quanto riguarda i diritti di LGBT, non capisco perché fanno finta che non ci siano le lesbiche, i gay, i transgender in paesi musulmani. E dobbiamo dare i diritti senza pensare se cosa c'è scritto in Corano, cosa c'è scritto, perché il discorso non è il Corano non parla dei transgender. Allora vuol dire che almeno possiamo parlare dei diritti di transgender, se Coran nega gay, ma almeno non nega le lesbiche. Quindi allora in Islam le lesbiche sono halal e invece i gay sono haram. Quindi non, cioè, senza andare in quei discorsi là, secondo me bisognava apprezzare questa campagna e portarla un po' avanti. Visto che tutti fanno finta di essere musulmani moderati, allora io aspettavo che tanti venivano con me, facevano un passo avanti, rompere questo tabù e almeno iniziare a parlare su questo discorso, perché non è una cosa che non esiste, esiste, bisogna parlare su questo, bisogna risolvere questi problemi. Ovviamente palesandosi così per i diritti delle coppie omosessuali, tutti si chiedono se lei sia omosessuale. Allora, io non ho risposto ancora a questa domanda. Ho visto, ma come mai non risponde? Sì, perché ma il discorso, sempre ripeto, perché se no questa campagna non avrà più un valore se iniziamo a parlare su queste cose qua. Io dico sempre, per parlare su questi diritti qua non bisogna essere omosessuale, non credo. No, questo ha ragione, però sembrerebbe che lei abbia paura. No, io assolutamente, se avevo paura non mettevo la faccia, anzi prima di iniziare questa campagna io ho parlato con diverse persone gay, lesbiche in Pakistan ovviamente, avevo parlato con loro e avevano paura di mettere la faccia e al posto loro ho messo la mia faccia, se avevo paura ovviamente non mettevo la faccia, anzi sono disponibile su tutto social network, ognuno mi può contattare, se avevo paura ovviamente non lanciavo questa campagna, scritto proprio su una bandiera arcobaleno alla Obsequality, secondo me meno di questo non potevo fare. Io credo che l'unica cosa che può cambiare questa mentalità è educazione. Educazione si può dare in diversi modi, sia in scuola che sulla rete o con i film. Cioè, bisogna lanciare il tuo messaggio, bisogna dare la tua opportunità, cioè la tua... Cioè, diciamo, dobbiamo dare un nuovo senso al popolo e quello credo che non potevo dare lì, cioè, visto che sono stato lì per tanti anni, girati i film, non sono alla fine usciti in cinema, cioè, non erano per guadagnare, ma erano i film che lasciavano un bel messaggio con tutti le prove del Corano, che minoranza ha tutti i diritti. però non sono riuscito, dopo aver lavorato così per anni, alla fine se fai una cosa e non va al pubblico il tuo messaggio, se non riesci a portarlo al pubblico, è inutile lavorare, no? Grazie a Wayahat Abbas Kazmig per essere stato con noi stasera, buona serata. Grazie. Sono bambini che giocano a stare immobili con la faccia in acqua senza respirare, perché tanto lo sanno che sta per arrivare la mano forte del papà che li prenderà e li farà giocare. Mamma si gioca. La nostra trasmissione termina qui. Vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 23, sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continuate a seguire i nostri programmi. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.